Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Stoccolma, San Pietroburgo, Londra, Berlino, Istanbul. Vedete, noi siamo dentro una fase particolarmente complicata. Ora, noi poi avremo una ricostruzione della vicenda di Stoccolma, se tuttavia dovesse essere confermato che anche lì è stato un camion, leggo dalle agenzie, appena rubato, che si è scagliato contro un centro commerciale. Voi comprendete che noi abbiamo di fronte una minaccia terroristica che ha un altissimo livello di imprevedibilità. Questo ha detto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi il ministro dell'Interno Minniti. È arrivata la notizia a lui oggi quando era un convegno, quindi ancora non gli mancavano alcuni dettagli di questo attentato terroristico a Stoccolma, però la cosa importante purtroppo che ha detto è che questo dimostra, come tanti altri attentati, in particolare appunto Londra, Nizza, Berlino, l'altissimo tasso di imprevedibilità di questi attacchi. Ne parleremo, ci concentreremo in buona parte ovviamente questa sera su ciò che è successo a Stoccolma. Tra l'altro la buona notizia, diciamo così, almeno poi se confermata, è che poco fa sarebbe stato arrestato un uomo che ha detto sono stato io a rivendicare questo attentato, e poi naturalmente ci soffermeremo anche sull'attacco americano alla Siria dopo la strage con gli agenti chimici. Trump ha avuto un grande consenso internazionale con questa sua iniziativa, però ha avuto anche delle critiche, ha lasciato sicuramente spiazzati coloro che lo sostenevano, che l'hanno sostenuto, perché aveva detto America first, cioè prima di tutto l'America, e quindi promettendo un disimpegno dagli scenari di crisi internazionali. Quindi ci soffermeremo soprattutto su questi due argomenti, e poi però leggeremo anche verso la fine con le previsioni meteo per sapere che cosa ci aspetta per questo fine settimana. Almeno certo è chiaro che da un punto di vista invece, diciamo, della nostra tranquillità, sicurezza e serenità a livello internazionale, si può mai stare tranquilli. Per la vostra interazione qui Effetto Notte, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Quindi vado a raccontarvi sinteticamente come sempre la giornata e poi cominciamo ad approfondire tutti gli elementi, gli aspetti che riguardano questi due macro temi. L'attentato terroristico in Svezia, camion sulla folla nel centro di Stoccolma, i morti sono almeno 4, 15 feriti, è arrestato un uomo che rivendica l'attentato. L'attacco americano in Siria, distrutta la base a Shairat, alta tensione con la Russia, applaudono Israele e Turchia mentre si susseguono le reazioni internazionali. Gentiloni commenta, risposta motivata, ora però bisogna riprendere il negoziato. Arriva la buona scuola bis, dal 2019 cambia la maturità, approvati 8 decreti attuativi, novità anche per i professori. Movimento 5 Stelle, approda in tribunale la lite sull'ex candidata a Genova, Cassimatis sospesa, la decisione probabilmente lunedì, lei commenta, finalmente si fa chiarezza. Uccise e bruciò l'ex fidanzata a Roma, ha chiesto l'ergastolo per Paduano, da lui, dice la PM, nessun pentimento. La fusione tra Fox e Sky, via libera dalla Commissione europea, non c'è alcun problema di concorrenza in Europa. Partiamo quindi dall'attentato terroristico di oggi nel centro pedonale della capitale svedese, Stoccolma. Secondo un aggiornamento, come dicevo, giunto mezz'ora fa, un uomo è stato arrestato a Stoccolma, appunto, e ha rivendicato l'attacco di oggi. Lo riferiscono fonti della polizia citate dai media locali. L'attentatore era dato in fuga sino a mezz'ora fa. Oggi intorno alle 15, come è andato questo attentato? Intorno alle 15 ore italiane, un camion, probabilmente rubato, ha falciato un gruppo di persone che camminavano nel centro di Stoccolma per poi schiantarsi contro l'Allianz City, il centro commerciale più grande della città. Sono 4 i morti, una quindicina i feriti. Il primo ministro parla di attentato terroristico. Dopo, diciamo, le prime titubanze, ha confermato che di questo si tratta. Le autorità da subito avevano invitato gli abitanti a evitare il centro della città, chiuse tutte le metropolitane, evacuata la stazione ferroviaria, cancellati tutti i treni per l'intera giornata di oggi, come a Nizza, come a Berlino, quindi un altro attacco terroristico nel cuore dell'Europa, questa volta in Svezia. Si tratta di un attacco contro tutti noi, ha detto il presidente della Commissione europea Juncker. Attivato come a Parigi e Bruxelles il safety check su Facebook, cioè quel sistema per consentire alle persone che si trovano a Stoccolma di far sapere che stanno bene, e questo sarà naturalmente il tema da approfondire subito dopo questa sintesi della giornata. E poi c'è l'attacco in Siria da parte degli Stati Uniti, emergono sempre più dettagli sul bombardamento della scorsa notte. Allora sentiamo prima la cronaca e poi le reazioni internazionali. cominciano ad arrivare le prime immagini dalla base siriana di Damasco a Shayrat, colpita dagli Stati Uniti nella notte con 59 missili Tomahawk. La base è uno degli snodi chiave siriani nella lotta all'ISIS, ma è soprattutto il luogo da cui sarebbero decollati martedì i jet che hanno bombardato con gas Khan Sheikhoun nella provincia di Idlib, uccidendo oltre 80 civili, tra loro 30 bambini. Nella base, al momento dell'attacco, c'erano 30 aerei e, secondo fonti attendibili, ne sarebbero stati colpiti tra i 6 e i 15, 12 morti, tra loro 6 militari. Dunque danni meno ingenti di quanto un attacco del genere prevedesse, tanto che Mosca arriva a parlare di flop. La Siria e i suoi alleati risponderanno in maniera appropriata a questa aggressione, ha detto oggi Butania Shaaban, consigliere politico del presidente siriano. Ma il gesto di Trump ha una valenza politica che va al di là del risultato ottenuto sul campo. È di fatto il primo attacco diretto degli Stati Uniti al regime del presidente Bashar al-Assad dall'inizio della guerra in Siria. Un attacco che Trump fa partire dalla pancia. Non è giusto che muoiano i bambini, dirà in conferenza stampa riferendosi alle vittime dell'attacco chimico di martedì. A molti però non è sfuggito come l'attacco sia arrivato nel giorno in cui Trump riceveva il presidente cinese. Dunque un atto di pancia, quello americano, che intende però mostrare anche i muscoli. Ora Trump, per aprire veramente il fronte più vasto contro la Siria, ha bisogno dell'approvazione del Congresso americano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Reazioni dure da Mosca, appoggio corale da Europa, NATO e dagli alleati tradizionali. L'attacco missilistico americano contro la base militare siriana spacca, come prevedibile, il fronte della comunità internazionale, anche se la mossa di Donald Trump li guadagna il sostegno della maggior parte dei paesi. Presidente Trump. Lo scontro più duro è con la Russia. Questo passo arreca un danno notevole ai rapporti tra Washington e Mosca, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Se il presidente russo Putin fa sapere di essere preoccupato per l'attacco americano, su Facebook il premier Medvedev alza il tiro del confronto. Attaccando una base aerea siriana, gli Stati Uniti sono arrivati a un passo dallo scontro con Mosca, scrive. Anche l'Iran condanna l'attacco, definendolo unilaterale. Cina e ONU invitano alla calma, entrambe chiedono una soluzione politica, evitando l'escalation di tensioni. Decisamente folta la platea dei sostenitori della mossa di Trump, in prima fila l'Europa. La cancelliera tedesca Merkel parla di un'azione condivisibile da parte americana, più sfumata la posizione del presidente francese Hollande, che chiede che la risposta statunitense continui nel quadro della comunità internazionale. L'asse franco-tedesco produce una dichiarazione comune nella quale addossa al dittatore siriano Assad la sola responsabilità di quanto accaduto, opinione condivisa dal segretario generale NATO Stoltenberg. La Gran Bretagna definisce il raid americano una risposta appropriata al barbaro attacco con armi chimiche contro i civili. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'Italia si è schierata con gli Stati Uniti sulla Siria ed è naturalmente preoccupata per quanto successo a Stoccolma. C'è un alto tasso di imprevedibilità negli attacchi terroristici, a dare l'allarme il ministro degli interni Marco Minniti. Siamo dentro una fase complicata, dice, riguarda Stoccolma. Quando ho deciso di fare insieme due provvedimenti su sicurezza e immigrazione, avevo in mente questo. C'è poi l'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella, la Svezia conti sull'Italia per combattere il terrorismo. Lega e Fratelli d'Italia invece polemizzano, i confini d'Europa non sono più sicuri. Sull'altro fronte, il raid di Donald Trump in Siria, interviene il premier Paolo Gentiloni, che spera si riprenda la strada del dialogo. È una risposta motivata contro un crimine di guerra, il cui responsabile è il regime di Bashar al-Assad. Ma le parole di Gentiloni sono criticate dal Movimento 5 Stelle, per il quale il premier doveva spendersi per la pace. Matteo Salvini della Lega poi condanna la mossa di Trump. Pessima idea, i missili non sono mai una buona idea, è un favore all'ISIS, al terrorismo islamico, era una guerra già vinta. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi torneremo ovviamente anche sull'attacco americano in Siria, su ciò che potrebbe significare da un punto di vista delle relazioni internazionali, in particolare tra Stati Uniti e Russia, e quali conseguenze potrebbe avere. Oggi si è aperto a Roma il forum internazionale sulla parità di genere, sulla sfida delle donne per la crescita sostenibile e la lotta alle disuguaglianze, promosso dalla presidenza italiana del G7, organizzato dalla Farnesina in collaborazione con Aspen Initiative for Europe, Valore D, Women Empower the World. E aprendo il forum, il vice ministro degli esteri Mario Giro ha detto: l'impegno per la tutela delle donne deve iniziare da casa nostra, dove 100.000 donne sono schiave del mercato del sesso e molte altre sono vittime di povertà e maltrattamenti e femminicidi. La scuola, sono stati approvati i decreti in Consiglio dei Ministri. dall'esame di maturità al reclutamento dei docenti, dalla scuola d'infanzia al sostegno per gli alunni disabili. 8 deleghe che completano la riforma della scuola, quella che il premier Gentiloni definisce una notevole iniezione di qualità. Il decreto sulla valutazione degli studenti, il più travagliato, alla fine resta il 6 in tutte le materie, condotta compresa, per essere ammessi alla maturità, esame dal quale sparisce il quizzone. Novità queste in vigore dal 2019 e restano pure nel primo ciclo di istruzione i voti numerici tradizionali. E poi in arrivo nuove risorse per il diritto allo studio, novità per l'educazione della fascia d'età 0-6 anni, per le scuole all'estero e per l'inclusione degli alunni disabili. Infine nuove regole per diventare docenti. Dopo 3 anni si entrerà direttamente in ruolo e la fase transitoria permetterà ai docenti di seconda e terza fascia con 3 anni di servizio di essere stabilizzati. Il ministro dell'istruzione Fedeli: sono molto soddisfatta perché proprio delega per delega abbiamo veramente prospettato il cambiamento, la qualificazione e l'innovazione della scuola italiana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora il Movimento 5 Stelle e il caso di Genova, il caso della candidata del Movimento 5 Stelle appunto nel capoluogo ligure, è approdata in tribunale per il ricorso d'urgenza presentato da Marika Cassimatis, l'ex candidata del Movimento 5 Stelle a sindaca della città e sostituita poi da Grillo, poi sospesa dal Movimento. Il presidente della prima sezione del Tribunale Civile si è riservato e dovrebbe decidere lunedì. Cassimatis ha detto di essere ancora iscritta al Movimento 5 Stelle nonostante la sospensione annunciata da Grillo sul blog. Posso ancora accedere alla piattaforma Rousseau, ha detto, quindi tecnicamente sono ancora iscritta al Movimento. E poi parliamo purtroppo di questo nuovo rincaro dei carburanti dopo un marzo di calma, con il rischio a pochi giorni dal Ponte di Pasqua di una nuova stangata per i vacanzieri in particolare. Dopo la girandola di aumenti di ieri, oggi è stato Total Erg a intervenire sui prezzi raccomandati di benzina e diesel, con correzioni all'insù di un centesimo su entrambi i carburanti. A mettere mano ai listini anche Kuwait con un rincaro di 0,5 centesimi su benzina e diesel. E c'è questo semaforo rosso per Uber in Italia. Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco entro 10 giorni dei servizi offerti dal gruppo in Italia con la sua applicazione Uber Black, ossia le berline nere con autista attive a Milano e nella capitale e analoghe applicazioni. È stato accolto un ricorso per concorrenza sleale delle associazioni di categoria. Per la cronaca, la Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Vincenzo Paduano, l'uomo che strangolò e diede alle fiamme la sua ex fidanzata, giovanissima ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, il 29 maggio scorso a Roma. Vi ricordate? La richiesta è stata fatta dalla PM Maria Gabriella Fazzi dopo 4 ore di requisitoria dove si celebra il processo con rito abbreviato. In questi mesi, ha detto la PM, da parte di Paduano non è arrivato alcun cenno di pentimento e di richiesta di perdono. E poi sempre per la cronaca, a Budrio, vicino Bologna, oggi sono stati i funerali del barista ucciso, grande folla, e la vedova del barista che ha avuto un malore ed è svenuta, si è sentita male. Sul tema della sicurezza e della legittima difesa, Radio 24 dedicherà un viaggio la settimana prossima, ogni mattina nei GR, e approfondimenti anche sui dati reali sul porto d'armi, ma anche con le discussioni politiche e gli esiti delle ultime vicende giudiziarie. Per chiudere, una notizia che riguarda i colossi dei media: la Commissione europea ha autorizzato senza condizioni il progetto di acquisizione di Sky da parte della 21st Century Fox. L'operazione del colosso televisivo americano nei confronti della catena televisiva con base in Gran Bretagna non pone alcun problema di concorrenza in Europa, secondo la Commissione. Bene, a questo punto ci prendiamo una pausa per aggiornare chi invece sta andando, sta viaggiando. Vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. La sintesi delle notizie l'avete già sentita, sapete che ogni tanto ve le ricordo, vi ricordo i fatti principali. Se non accendete puntualmente alle 21, ma ricordatevi alle 21 di accendere tutte le sere, dal lunedì al venerdì, se volete essere aggiornati a fine giornata su quello che è successo, le principali notizie dall'Italia e dall'estero, e così un giorno non potrete dire non lo sapevo, perché se ascoltate Effetto Notte da tutto il mondo, tra l'altro, viene ascoltato Effetto Notte, ogni tanto scrivete dagli Stati Uniti, dalla Germania, anche dall'Australia e dall'Africa. Adesso ci con concentreremo su due temi in particolare questa sera, naturalmente su questo attacco terroristico a Stoccolma e poi ritorneremo sulla decisione di Trump di intervenire in Siria. 349-238-6666 per messaggi WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio scrive Clotilde, dice: Santa Madre che ansia, mette la voce di Minniti, cioè il ministro dell'Interno che avete sentito all'inizio, che ha detto in un convegno nel primo pomeriggio è arrivata la notizia così dell'attentato terroristico a Stoccolma, ha detto che sicuramente questo dimostra che c'è un altissimo tasso di imprevedibilità purtroppo di questi attentati terroristici. Poi invece un altro ascoltatore dice: stiamo allegramente andando verso la guerra mondiale, Russia, Stati Uniti, Israele, Corea, Turchia sono guidati da psicopatici criminali. Quello che effettivamente è vero è che davvero gli uomini non sono totalmente incapaci di passare dei lunghi periodi di pace, ci deve essere sempre questa voglia di guerra, di distruzione, di attacchi, di supremazia e di sottomissione. Adesso, come vi dicevo, andremo su un po' sui dettagli di questo attentato di oggi, ma intanto vi ricordo quali sono le notizie principali. Stoccolma, camion sulla folla, attentato nel centro pedonale, 4 i morti, una 15ina i feriti e poi un uomo arrestato poco fa, circa mezz'ora fa, che ha detto: sono stato io. Trump attacca in Siria, lampi di guerra con la Russia, nel senso che sicuramente sta alzando moltissimo la tensione tra Stati Uniti e Russia, distrutta la base di Shairat, Putin dice è un'aggressione a un nostro alleato. Per quanto riguarda l'Italia, arriva la buona scuola bis, dal 2019 cambia la maturità, sono stati approvati 8 decreti attuativi, novità in vista anche per i professori. Approda in tribunale la lite del Movimento 5 Stelle a Genova, l'ex candidata, silurata poi da Grillo Cassimatis, sospesa dal movimento, la decisione definitiva verrà presa lunedì, la candidata dice finalmente si fa chiarezza. E poi fusione Fox Sky, via libera della Commissione Europea che dice non c'è alcun problema di concorrenza in Europa. E poi verso lo stop al catasto nel documento di economia e finanza, un nuovo reddito di inclusione. Queste sono alcune misure di cui si parla che vengono anticipate. I giudici che intanto bloccano il servizio, l'applicazione Uber Black, perché parlano di concorrenza sleale. Adesso quindi soffermiamoci sull'attacco terroristico a Stoccolma, a distanza di 3 giorni dall'attentato nella metropolitana di San Pietroburgo, no? In Russia, di cui abbiamo parlato, e a 2 settimane da quello di Londra del 22 marzo scorso. Tra l'altro è morta oggi la giovane donna che era stata sbalzata nel Tamigi. E con la stessa modalità degli attacchi terroristici a Berlino e a Nizza, oggi intorno alle 15 ora italiana, un camion che dalle prime informazioni risulta rubato è stato lanciato contro i pedoni nel centro di Stoccolma, la capitale svedese, nell'area pedonale più famosa della città. È andato poi a schiantarsi contro un negozio del più grande centro commerciale della città, nella centralissima Drottninggatan, affollata strada pedonale della capitale svedese vicino alla stazione centrale. Si parla di almeno 4 morti, una 15ina di feriti. La polizia aveva raccomandato sin dal primo momento alla cittadinanza di evitare il centro della città, erano stati bloccati i treni, le metropolitane. I testimoni probabilmente hanno anche aiutato, a parte che circolava anche una foto di questo attentatore con una felpa grigia, un maglione verde. È stato in fuga per un po', poi mezz'ora fa è arrivata questa notizia che è stato arrestato un uomo che appunto ha rivendicato l'attentato, ha detto sono stato io. Le reazioni: Putin ha mostrato, espresso la sua solidarietà al re di Svezia, vi ricordo che la Svezia è una monarchia costituzionale, il presidente della Commissione Europea Juncker ha detto è stato un attacco a uno Stato membro e quindi a tutti noi siamo solidali nei confronti della Svezia. Gentiloni ha detto più che mai amici della Svezia. Ma prima di tutto, prima di fare un'analisi su quanto è successo, vorrei sentire un cittadino italiano che vive da qualche anno in Svezia, che è Samuele Caldognetto, che lavora per il Teatro di Stoccolma. Samuele, buonasera. Buonasera. Che cosa hai provato dopo quello che è successo? È una domanda banale, ma è chiaramente anche per capire, soprattutto poi in una città come Stoccolma, in uno stato come la Svezia, che ai più non sembrerebbe un luogo particolarmente pericoloso, violento, nel mirino degli attentatori, degli integralisti islamici. Quindi, quando è successo, che cosa hai pensato? Guarda, quando è successo ero per strada per andare banalmente all'IKEA con una collega di lavoro e discutevamo di questa cosa e prima c'è un grande senso di umanità dietro questa cosa, perché la maggior parte delle persone che magari non senti da tanto tempo ti chiede anche se sei vivo, se succede, questo sia per gli svedesi che per gli italiani. Nonostante la terribile sensazione che c'è dietro un attentato, c'è anche questo aspetto che non va dimenticato, come si diventi all'improvviso molto più facilmente umani. Vero questo. Poi ci sono sensazioni molto miste, c'è chi se lo aspettava, forse in Svezia ce lo si aspettava, anche perché sì, è una nazione molto tranquilla, ma ha ospitato molte persone, forse in percentuale quella che ha ospitato molte più persone, e naturalmente possibili idioti, terroristi. Non tanto tempo fa è accaduto un'esplosione poco distante da dove è successo l'attentato. Io ero passato di dopo da 2 minuti, ero passato proprio nella zona dell'attentato con mia figlia settimana scorsa. E ti fa pensare queste cose, ma bisogna sempre ricordarsi che dietro tutto questo c'è risentimento naturalmente di alcune persone, ma molti idioti. Terroristi sono idioti, non c'è niente chiaramente, da fare. Chiaramente, ma è un eufemismo, un complimento questo, Samuele. Senti, ma in genere, come prima di questo attentato, come hai vissuto, come si vive a Stoccolma? Ma sai, si vive generalmente molto bene, è un posto molto tranquillo, c'è rispetto, c'è un tentativo di integrazione che naturalmente fallisce molte volte, però in molti casi anche. Funziona anche, diciamo la verità, però appunto negli ultimi tempi con la chiusura un pochino delle frontiere, una sorta di dogana ristabilita, si sentiva un'atmosfera strana e la gente per preoccupazione naturalmente si sposta a votare per estremismi che portano a sentirsi leggermente più sicuri quando in realtà non lo si è affatto, perché appunto nessun partito riuscirà mai a fermare un attentato terroristico di questo tipo, è troppo imprevedibile. Samuele, per chiudere, dici appunto la Svezia è storicamente una società aperta, quindi diventata anche multietnica, finora come era stata vissuta questa caratteristica sociale ormai della Svezia? C'è, è contrastante la cosa, perché naturalmente c'è la preoccupazione dietro il non si sa chi arriva, ma dalla stesso lato c'è una grande solidarietà, un tentativo, uno sforzo enorme di far sì che culture completamente diverse si avvicinino, e c'è questo rispetto, lo sento viaggiando, anche avendo un fratello in Svizzera e gente sparsa un po' tutto il mondo, come ormai è, si sente un certo tipo di tranquillità, si cerca di omogeneizzarsi, ma ci sono zone diverse, ci sono pericoli. E naturalmente aprendo le frontiere a tante persone c'è il rischio che appunto all'interno di queste tante persone ci siano cellule terroristiche, ma il punto non sta nel chiudersi, perché non risolverebbe assolutamente niente. È chiaro. Ti ringrazio per questo, Samuele Caldognetto, grazie. Grazie mille. Testimonianza. Buonasera a tutti. Ciao, spero che insomma possa continuare in modo più sereno possibile anche Samuele a vivere in Svezia. Adesso vorrei coinvolgere Arturo Varvelli, che è responsabile dell'Osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Varvelli, buonasera. Buonasera. Abbiamo sentito anche la testimonianza di questo ragazzo italiano che vive lì da diverso tempo, che però dice, a parte, ecco, la domanda poi che le vorrei fare anche è per caso insomma, sta fallendo davvero questo sogno di integrazione anche in un paese come la Svezia, e l'altro è la Svezia forse se lo aspettava, nel senso che io ricordo che qualche settimana fa c'era stata una simulazione nel Parlamento svedese di un possibile attentato, e in più la Svezia, ma forse per le tensioni con la Russia, ha annunciato qualche giorno fa di voler reintrodurre la leva obbligatoria che aveva abolito nel 2010. Come mai queste mosse? Sì, certamente la Svezia è un paese particolare. Dire che per un attentato è fallito il suo progetto di integrazione, onestamente non ci sono gli elementi per poterlo dire. Non ci sono gli elementi perché beh, è il famoso proverbio che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Quindi anche in realtà... se leggevo che ci sono gruppi di estrema destra, spesso sì, risse... Certo. Certo, c'è, è un paese che proprio per aver ospitato in passato un gran numero di persone provenienti da paesi diversi, peraltro, e anche con culture molto diverse, non solo rispetto alla Svezia, ma rispetto ai stessi paesi di provenienza, dal Medio Oriente ai Balcani, a parti del mondo, quindi molto diverse. Quindi sostanzialmente ha creato alcune sacche in alcuni centri come Göteborg, come Malmo, nei quali naturalmente vi sono problemi di inserimento, vi sono problemi di criminalità, vi sono problemi lavorativi per queste persone che sembrano sostanzialmente non vivere in Svezia ma vivere ancora in alcune aree controllate secondo regole diverse. Questo è un problema che si è reso sempre più sensibile anche naturalmente all'amministrazione svedese. Quindi anche la Svezia non è stata in grado di gestire come un po' gran parte dei paesi europei. Quindi sta gestendo un po' in ritardo, po' in ritardo perché è un paese che vive molto di politically correct. E affrontare un problema che arriva in parte da una minoranza religiosa naturalmente crea dei problemi, crea delle difficoltà che non si in qualche maniera inseriscono nella loro forma mentis. Gli svedesi sono un popolo realmente aperto. Questo crea delle difficoltà a volte nell'affrontare alcuni problemi. Ciò non vuol dire che debbano essere marginalizzate le persone o alcuni tipi di popolazione. Ma certamente che si guardi con realismo a questi problemi. La Svezia lo sta facendo, forse l'ha fatto, ha cominciato a farlo un po' tardi. Vi sono state ad esempio delle polemiche relativamente a alcune persone che chiedevano lo status di rifugiato politico, che poi si è scoperto aver militato in gruppi jihadisti in Siria e in Iraq, e ad alcuni di questi era stato pure seppur in via preliminare concesso. Quindi naturalmente c'erano state delle polemiche, questo aveva tutto innescato un dibattito, poi sull'onda naturalmente di quanto sta accadendo in tutta Europa, in tutto il mondo, di movimenti populisti eccetera, che cercano di addebitare a qualcun altro le responsabilità di frustrazioni, di malgoverno, di mancata integrazione. A qualcun altro certamente questi gruppi populisti anche in Svezia stanno prendendo una qualche forma, che è un fenomeno piuttosto nuovo in un paese così ben radicato, diciamo, nella socialdemocrazia. Però Varvelli, tra l'altro la Svezia non fa parte della NATO, anche se ha firmato, no, un accordo di collaborazione con i paesi che ne fanno parte. Anche lì è solo per malcontento, il classico lupo idiota solitario, come vogliamo chiamarlo, oppure nessun paese escluso, anche se non partecipa attivamente direttamente, che sia in Siria, in Iraq, insomma, no, Nei scenari di guerra internazionale? Io non credo che ci sia una grande connessione tra la partecipazione diretta o indiretta, poi vi sono diversi gradi di partecipazione. Si può dire che l'Italia partecipi alla coalizione internazionale, certamente partecipa, vi sono addirittura soldati in Iraq, certamente non bombardiamo, è una forma di partecipazione diversa, però abbiamo visto colpito la Svezia, che non è che abbiano una partecipazione di questo tipo. Abbiamo visto il Belgio, che sostanzialmente non ne partecipe se non all'interno della NATO indirettamente. Quindi sono ancora motivi ancora più preoccupanti, più striscianti, perché qualsiasi sacca di malcontento, di bassa integrazione può poi scatenare un attentato come questo, così in mezzo alla folla. Ma è per certi versi, come dice Oliver Waugh, una questione nichilista, c'è una questione sociale nichilista. Lo Stato islamico, il jihadismo in senso più ampio, raccoglie consenso attraverso queste fasce di popolazione che sono in parte o si reputano marginalizzate. e quindi sono soggette a ispirarsi a una fonte alternativa, a qualcosa che credono possa risolvere i loro problemi. Questo, lo Stato islamico, il jihadismo si fonda su un senso di frustrazione di alcune persone, quindi sostanzialmente fin quando esisteranno queste motivazioni, una forma di jihadismo che si chiamerà Al-Qaeda, che si chiamerà Stato islamico, che si chiamerà in maniera differente nel prossimo futuro, potrà avere qualche forma di attrattiva. Poi certo tutto questo è connesso con quanto avviene in Medio Oriente, non è che non sia connesso. In questo momento l'Islam sta vivendo un periodo particolarmente tormentato e questo periodo particolarmente tormentato ha certamente delle ricadute, alimenta settarismi all'interno del mondo musulmano, alimenta tensioni, e questo naturalmente favorisce il proselitismo di una visione radicale e violenta. Grazie Arturo Varvelli dell'ISPI, grazie. Buona grazie serata. A voi. Allora direi che adesso ci prendiamo una pausa, respiriamo un po', poi ritorniamo su cose comunque pesanti come l'intervento degli Stati Uniti in Siria, e cerchiamo anche di capire come si possano riposizionare un po' le relazioni internazionali e anche qual è l'opinione pubblica per esempio all'interno degli Stati Uniti. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano, e riprendiamo allora con i temi. Abbiamo lungamente parlato dell'attacco terroristico in Svezia, con testimonianze e analisi. Adesso invece andiamo sull'attacco americano in Siria. Vi ricordo velocemente le notizie più importanti, che sono per l'appunto l'attentato terroristico in Svezia, questo camion sulla folla nel centro di Stoccolma, almeno 4 i morti, una quindicina i feriti, e sarebbe arrestato un uomo che ha rivendicato circa un'ora fa a questo punto l'attentato. L'attacco americano in Siria, ne parleremo tra pochissimo, e poi arriva per quanto riguarda l'Italia la buona scuola bis. Dal 2019 cambia la maturità, approvati 8 decreti attuativi con delle novità anche che riguardano i professori. Movimento 5 Stelle approda in tribunale la lite sull'ex candidata a Genova Cassimatis, che è stata sospesa per il momento dal movimento. La decisione probabilmente arriverà lunedì definitiva, e lei commenta: finalmente si fa chiarezza. Poi la fusione tra Fox e Sky, via libera della Commissione europea, non c'è alcun problema di concorrenza in Europa. L'azione ordinata stanotte dal presidente degli Stati Uniti Trump è una risposta motivata a un crimine di guerra. L'azione, come è noto, si è sviluppata nella base aerea da cui erano partiti gli attacchi con uso di armi chimiche dei giorni scorsi. Questo è stato il commento, un passaggio del commento del Presidente del Consiglio italiano Gentiloni rispetto alla reazione americana, che era stata annunciata negli ultimi due giorni, alla strage compiuta in Siria. Questa reazione americana, una strage compiuta in Siria con agenti chimici. Gli Stati Uniti quindi hanno lanciato 59 missili contro la base aerea di Assad a Shairat, la stessa da cui sarebbero partiti questi jet martedì scorso, che hanno scaricato questi agenti chimici sulla provincia di Idlib, fatali a oltre 80 persone, tra cui almeno 30 bambini. Obiettivo completamente distrutto, dicono gli americani. Trump ha commentato dicendo: abbiamo agito nel vitale interesse della sicurezza nazionale per evitare e impedire l'uso di armi chimiche, che vi ricordate era la linea rossa che Obama aveva detto di non oltrepassare, cioè aveva detto: in Siria interverremo se si supera la linea rossa, cioè l'utilizzo delle armi chimiche. Assad, il dittatore siriano, ha detto: è un'azione spericolata e irresponsabile, reagiremo. Ira di Putin, che dice prima di tutto che è un'aggressione a un nostro alleato, e poi Gentiloni, lo avete sentito, una risposta motivata a un crimine di guerra, però bisogna andare avanti, dice, con i negoziati. Non bisogna dimenticare che stiamo entrando, per quanto riguarda la guerra in Siria, nel settimo anno, che ci sono stati finora centinaia di migliaia di morti, metà della popolazione è sfollata o rifugiata all'estero, oltre 13 milioni di persone sono in stato di necessità, la speranza di vita è ridotta di 15 anni per gli uomini, 10 anni per le donne. Insomma, un disastro che riguarda la Siria, ma un disastro internazionale, un fallimento internazionale questo. A proposito della... Allora, avete sentito Gentiloni che ha cercato un po' di moderare, equilibrare, dicendo è stata una reazione motivata, però adesso cerchiamo di negoziare, mentre contrari sono stati per esempio tra le forze politiche italiane la Lega di Salvini. Sentiamo il suo commento. Pessima idea, i missili non sono mai una buona idea, è un favore all'ISIS, al terrorismo islamico, era una guerra già vinta e quindi probabilmente per i problemi interni, debolezze interne, mal consigliato da quelli che stanno ancora cercando le armi chimiche di Saddam. Mi domando se i disastri fatti in Iraq, in Libia, con le primavere arabe, in Afghanistan non abbia spiegato niente, quindi è una pessima giornata e spero che non sia un errore disastroso. Contrario a questo attacco, a questo intervento americano, anche il Movimento 5 Stelle, sentiamo di Stefano. Ma crediamo che le bombe non siano mai la risposta giusta alle crisi internazionali e l'Italia, il governo deve stare fermo in questo momento, non deve partecipare a questa guerra, che riteniamo fortemente sbagliata, e non deve specialmente esporre i cittadini italiani a un enorme rischio come quello di partecipare a questa guerra. E ora invece ascoltiamo Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University, oggi era 24 mattino, e che parla di una reazione emotiva di Trump. È chiaro che prima di tutto Trump ha reagito molto emotivamente, a, come tutta la comunità internazionale, al, a quello che è successo, l'attacco con le armi chimiche, senza poi che però, almeno pubblicamente, abbia dimostrato il coinvolgimento di Assad, perché comunque la prima domanda rimane sul, nel discorso molto breve che fa Trump, dà per come assunto il fatto che sia stato Assad. Anzi, individua la responsabilità russa nel non averlo fermato Assad. Sì, però chiaramente direi che quando uno inizia un'operazione del genere dovrebbe portare delle prove chiare. Adesso chiaramente alcune sono nel mondo dell'intelligence, non si può sempre rendere pubblica l'intelligence, però è chiaro che un'operazione di questa portata, in cui si va a bombardare uno stato sovrano in un momento così delicato con la Russia coinvolta, è chiaro che bisognerebbe forse dire un qualcosina di più e dimostrare, lo sappiamo perché A, B, C, D, e portare delle prove. La cosa non viene fatta. Il perché Trump cambi quella che è il suo atteggiamento iniziale, poi ripeto, noi dobbiamo interpretare l'amministrazione Trump dalle pochissime informazioni che abbiamo su di essa, perché in realtà è basarsi sui tweet del presidente e poco più. Cioè, ricordiamoci che il Dipartimento di Stato ha fatto una conferenza stampa da quando Trump si è insediato, normalmente sotto Obama erano due alla settimana. E poi Armando Sanguini, che è stato intervistato oggi in uno speciale di Radio 24, e che è consulente scientifico dell'ISPI, ex ambasciatore, che dice invece che Trump ha fatto quello che ci si aspettava. La cosa importante è che Trump ha fatto quello che tutto sommato ci aspettavamo che facesse Obama nel 2013. Non solo, è la prima volta che Trump fa un discorso da capo di Stato della prima potenza del mondo. Un discorso pieno di valori, un discorso pieno di indignazione. Sì, certo, lui dice tra l'altro abbiamo visto tutti i bambini colpiti, esatto. Così la comunità internazionale deve esatto. intervenire. E questo colpisce, perché lui parla nel suo discorso di comunità internazionale, esatto. In realtà è un'operazione solo degli Stati Uniti, la NATO piccata, esatto. Ha detto quindi commenteranno loro. E quindi Trump in questo momento, nell'arco delle 72 ore, come dice giustamente lei, è passato dall'America first in termini egoistici all'America prima nel mondo a difesa di certi valori. È un passaggio molto importante. Un passaggio molto importante che tra poco commenteremo con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Ciao a voi. Ma prima abbiamo la viabilità e ci sentiamo tra pochissimo. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero. Fidati di un esperto. Vi presento. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Dicevamo quindi Marco Valsania, quello che è interessante, abbiamo sentito le varie reazioni, le varie analisi a questo intervento di Trump in Siria, ma l'opinione pubblica interna americana, come ha preso questa decisione di Trump? Ma sicuramente diciamo la reazione immediata, che poi diciamo si rispecchia anche se si vuole nella reazione dei suoi rappresentanti politici allargati, cioè il Congresso, è stata sicuramente una reazione di approvazione di massima della risposta limitata, della risposta immediata, cioè di colpire la base militare di Assad, dalla quale è stato detto è partito l'attacco chimico. Ecco, quindi questo sicuramente è stato accolto in generale con favore, ma al di là di questo rimangono aperti gli interrogativi e rimangono aperti gli interrogativi anche in congresso, che è il primo poi a rispettare nelle sue voci anche l'opinione pubblica più allargata, e cioè cosa questo voglia dire. Siamo di fronte a un gesto comunque isolato, in cui un avvertimento, diciamo così, isolato, o all'inizio di una nuova strategia politica. Siamo e soprattutto questa strategia ha in qualche modo preso forma, sta prendendo forma, o è ancora, diciamo, carica soprattutto di incognite e non ci sono dei veri obiettivi al di là della retorica, dei veri obiettivi credibili. Ecco, questi interrogativi rimangono aperti, e vorrei dire una cosa, cioè vorrei invitare alla cautela quando si cerca di interpretare subito questo gesto, questa azione di Trump come una svolta completa di politica estera. Cioè dall'America first a invece intervenire di nuovo, impegnarsi sui scenari internazionali. Le conseguenze bisogna poi vederle, perché se poi questo genera dei trascinamenti verso... Ma dal punto di vista di Trump ci sono, credo, delle ragioni oggettive che hanno, diciamo, non molto a che fare con l'indignazione necessariamente per l'attacco chinto. Ricordiamo che Trump non era presidente, ma non si era esattamente indignato quando un attacco chimico di Assad nel 2013 uccise 1.400 persone nella periferia di Damasco, anzi disse che non bisognava assolutamente intervenire. Quindi, l'indignazione della grande politica richiede sempre, secondo me, di fare una tara. Le ragioni della mossa di Trump da un punto di vista, credo, della politica sono che si è trovato di fronte alla necessità comunque di rispondere, perché i dubbi sulla sua autorevolezza politica come leader internazionale erano cresciuti man mano, diciamo, che passavano le settimane di della sua presidenza, e quindi diciamo il trovarsi di fronte alla sfida di Assad e del suo protettore russo lo ha un po' spinto o forse ha un po' forzato anche la sua mano, costretto a una decisione per diciamo affermare la serietà della sua amministrazione. E anche, diciamo, il primo risultato concreto di questi rimpasti che sta facendo dentro la Casa Bianca, ricordiamo, ha elevato di fatto i professionisti della politica estera, diciamo, e a scapito recentemente degli ideologi dell'isolazionismo un po' e della destra populista, cioè Bannon, e sta addirittura studiando rimpasti ulteriori. Sembra che si dice questa sera che Bannon sia addirittura presto sarà addirittura cacciato del tutto, e anche il suo capo di staff Reince Priebus verrà sostituito rapidamente per, diciamo, scarsa efficacia. Quindi ecco questa risposta a Assad ha anche a che fare forse più con ragioni, non dico di politica interna, ma comunque ragioni legate alla credibilità della sua amministrazione, almeno quanto così alla ragione di politica internazionale e di indignazione, diciamo, morale. Grazie Marco Valsania. Ciao Marco. Di questa analisi volevo leggere ancora qualche messaggio vostro. Nino, che dice: purtroppo non credo che sia stato il senso di giustizia muovere Trump, e temo anche che sia un teatrino tra due protagonisti che fingendo di litigare raggiungano i loro obiettivi, cioè dice un po' un gioco delle parti tra Russia e Stati Uniti. Simone dice: non credo, se cade il tiranno Assad la Siria rischia di finire nelle mani dell'ISIS e di gruppi estremisti, purtroppo la realtà è questa, gli Stati Uniti fanno l'errore già commesso in Libia. Francesco, avevo scritto giorni fa su questa pagina, due giorni fa, nonostante l'opinione dominante di segno contrario, che eravamo alle soglie di una nuova esportazione di democrazia. Ora invece esportiamo il bel tempo con il nostro Paolo Corazzon di Trevimeteo. Caro Paolo. Buonasera, ma sì, almeno qui abbiamo buone notizie. Sarà un weekend splendido in tutta Italia, sole protagonista da nord a sud, temperature da fine maggio, addirittura domenica punte di 25 gradi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più, ma la cosa importante è che le ultime proiezioni, diciamo così, lasciano intendere che anche il weekend di Pasqua sarà più che altro bello, quindi vi confermerò venerdì prossimo, ma probabilmente finirà tutto liscio anche a Pasqua e Pasquetta. Attendiamo ansiosi la tua conferma, intanto ci accontentiamo di questo bel tempo che ci hai annunciato. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia, sempre. Ciao. Ciao Paolo, ci riaggiorniamo brevemente alle 22.